Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, giovedì 6 aprile del 2017. Questo è Visionare, l'appuntamento con il cinema come ogni giovedì. Tutte le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta e anche sulla pagina Facebook di Visionari, Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Info in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito della radio, home page Ascolta la diretta. E siamo in collegamento con Teresa Sala per parlare della campagna di crowdfunding per il documentario Non è amore questo. Teresa, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, buongiorno a tutte e tutti. Allora, mi hai mandato questa informazione, mi interessava molto l'argomento, parlacene un po'. Allora, il progetto Non è amore questo è un film ammettato al documentario della fiction, diciamo, che racconta la storia di Barbara, la sua vita quotidiana, la sua vita intima, cercando di raccontare la sua vita, soprattutto la sua vita affettiva e sessuale, e partendo anche da un presupposto che Barbara è disabile. Quindi il tema della disabilità è uno dei temi principali di questo lavoro, viene in realtà poi declinato in molte cose. Barbara, una delle cose che ci teniamo molto a dire è Barbara, come tutte le persone che hanno una disabilità, non è solo questa, ha una serie di altre cose, di sfumature della sua vita molto particolari. Per finanziarlo abbiamo ricevuto in realtà un contributo dal Ministero e la parte restante di budget abbiamo deciso di fare una campagna di crowdfunding, e quindi raccogliere i soldi dal basso, coinvolgendo le persone, e devo dire che stanno avendo dei buoni risultati, perché su questo tema in realtà c'è molto interesse in questo momento ed è molto apprezzato. Teresa, com'era partito tutto il progetto? Allora, il progetto è partito in realtà come tanti progetti così in Italia parecchi anni fa, 2 o 3 anni fa, dall'incontro tra me e Barbara. Facevamo insieme un laboratorio di teatro, ci siamo conosciute, abbiamo cominciato a parlare partendo anche appunto da Barbara, è anche un'attrice, partendo da dei lavori che avevamo fatto, da degli interessi che avevamo in comune, abbiamo man mano sviluppato questo progetto che si è definito in questa forma appunto nel corso degli anni, e man mano abbiamo cercato di coinvolgere altre persone e siamo arrivati a oggi, in cui inizieremo le riprese tra un paio di settimane, quindi finalmente si inizia. Senti, avete preparato anche un canovaccio, una sorta di sceneggiatura per il progetto? Sì, perché in realtà è una forma particolare, nel senso che non c'è un'intervista, ma con Barbara e con Francesca Garolla, che è una drammaturga, abbiamo lavorato a un diario, cioè abbiamo chiesto a Barbara nel corso di diverso tempo su alcuni stimoli che le davamo, di scrivere cose riguardanti un pezzo della sua vita, dei suoi sogni, desideri, frasi che le venivano in mente, e poi abbiamo rielaborato questo materiale in formato proprio di una sorta di diario, di flusso di coscienza, e sarà verrà letto da lei in voice over, e sarà questo un testo che accompagna in realtà tutto il film, in cui poi vediamo invece Barbara nella sua vita quotidiana, il lavoro, la casa, gli affetti, eccetera eccetera. Senti, curando questo film documentario, che idea ti sei fatta sul rapporto tra sessualità e disabilità? Allora, io non avevo molta esperienza di rapporto con persone disabili, e devo dire che appunto è molto interessante, molto illuminante appunto, ed anche secondo me mi ha dato molto l'idea di, finché non conosci personalmente non ti rendi conto, o comunque finché non hai modo di parlare, di ascoltare una persona, hai una visione vaga appunto. Esiste l'idea di il disabile, la disabile, ma in realtà poi le forme di disabilità sono tantissime e molto diverse, e alla fine ogni persona poi ha una storia, un passato e dei desideri diversi. Quindi prima di tutto è cercare di e vogliamo farlo anche con questo film, di capire e di raccontare anche questo. Non si può pensare a un mondo granitico, a un'identità granitica, come anche spesso viene espresso per esempio nei bagni pubblici con l'iconade Lumina in carrozzina, che non racconta in realtà tutta veramente la vastità e le esigenze che ci sono, anche per cui e soprattutto sulla disabilità poi siamo ancora in un momento, soprattutto anche in Italia, in cui già parlare di sesso è ancora abbastanza un tabù. Parlare di sessualità di persone disabili è proprio un'eresia, perché è difficile, perché queste persone vengono infantilizzate. Andrebbe fatta tutta una distinzione tra disabili fisici e disabili invece psichici, che hanno condizioni ancora diverse, però in generale è un aspetto che veramente non viene trattato, e viene spesso visto come se non ci fosse, quando invece è una cosa che c'è e va semplicemente riconosciuta, non va neanche stimolata, è già una realtà. Andrebbe solo riconosciuta e vissuta come tale, come tutti si innamorano, hanno desiderio sessuale, hanno una varietà, una possibilità di identità, di sogni, di desideri, come ce l'ha chiunque. Teresa, hai detto che a breve cominceranno le riprese, sui tempi vi siete dati delle scadenze, ci sono già degli obiettivi fissati? Allora, la campagna di crowdfunding si chiuderà il 14 aprile, quindi a brevissimo, ancora 9 giorni, e tra l'altro stiamo facendo degli eventi, diciamo più che altro nel nord Italia, di presentazione del progetto. Domani sera a Valli Unite, vicino a Tortona, ci sarà la presentazione del progetto più un giro pizza offerto organizzato da Valli Unite, che è una cooperativa, e il ricavato viene devoluto in parte al progetto. E faremo invece una presentazione a Milano venerdì prossimo. Invece le riprese inizieranno il 18 e noi speriamo di più o meno chiudere il progetto e quindi di cominciare poi il percorso di distribuzione lungo e tortuoso, come si sa, da metà luglio. Benissimo, benissimo. Allora, i riferimenti ce li hai dati. Teresa, a questo punto ci diamo appuntamento per un momento pubblico del lavoro finito. Sì, solo una cosa. Sì. Abbiamo una pagina Facebook su cui si può vedere un po' la presentazione del progetto. Un anno fa abbiamo girato anche un teaser di presentazione. La pagina è Non è amore questo. E abbiamo anche, segnalo, la piattaforma di crowdfunding Eppela, su cui se cercate Non è amore questo viene fuori il progetto, potete anche vedere la presentazione e la campagna e eventualmente contribuire. Senti, adesso leggendolo mi è saltata all'occhio questa domanda, insomma, perché non è un amore questo, come mai questo titolo, che non è in forma interrogativa ma affermativa? Allora, in realtà veniva da un pezzo del diario, che in realtà è un'espressione che Barbara riutilizzava prima in forma di domanda, poi in realtà in forma positiva, questo è l'amore, e in realtà avevamo appunto un po' lanciare una provocazione, e in questa scelta abbiamo deciso anche di, all'inizio l'avevamo pensato a quel punto di domanda, di toglierlo e di essere più diretti dicendo ok, è una negazione, partiamo da una negazione per in realtà poi affermare nel film invece un positivo. Beh. Che riguarda appunto da un lato l'aspetto di invisibilizzazione del desiderio e delle persone con disabilità, dall'altro anche poi in realtà sta nella biografia stessa di Barbara, nella sua storia personale, di una serie di rapporti in cui cioè che non sarebbero raccontati come di solito si raccontano le storie d'amore, ma Barbara stessa dice nel test, si racconta in questo modo dicendo: per me lo sono, però escono dal canone di quello che viene definito normalmente amore. Benissimo. E anche su questo, si parla anche di questo, che cosa possiamo definire amore in fondo, o se abbiamo bisogno di definirlo così. Teresa, un abbraccio e alla prossima. Grazie a tutti. Ciao. Teresa Sala sulla campagna di crowdfunding per il documentario, film documentario Non è amore questo. Con Fabio Giarrusso per parlare del portale scuola.cinemaf.net che coinvolge un progetto che coinvolge l'Istituto Luce ed è indirizzato alle scuole, al mondo scolastico. Fabio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Ce ne parli un po'? Sì, Scuola Cinemaf è un portale di streaming che sostanzialmente porta il film direttamente nelle aule scolastiche attraverso queste lavagne digitali, e in un certo qualche modo cerca di proporre un progetto didattico rivolto all'educazione all'immagine attraverso l'ausilio di film e documentari che in qualche modo possono sposare sia il programma scolastico ma anche tematiche quotidiane che gli adolescenti e non sono chiamati ad affrontare. Come è partito tutto? Sostanzialmente l'idea è partita dalle notizie che avevo da alcuni insegnanti che mi dicevano che facevano veramente fatica a portare i ragazzi ai cinema per tanti motivi burocratici e non solo. Allora a quel punto, visto la tecnologia matura oggi dello streaming, ho detto: ma perché non portare il cinema direttamente in classe? Soprattutto visto che molte scuole in Italia appunto sono dotate delle lavagne LIM, che sono appunto questi device digitali, questi grandi schermi, quindi questi piccoli schermi in realtà installati in ogni classe, nelle classi delle scuole italiane e soprattutto connessi alla rete. Avete individuato delle aree tematiche? Sì, le aree tematiche sono sicuramente quella storica in generale, o meglio ancora la storica legata alla resistenza, alla Costituzione italiana, alla sessualità, al mondo dei più piccoli, dei kids, che ancora non è un mondo identificato, quindi in realtà sono primi esperimenti di approccio al cinema, al mondo dell'audiovisivo. Una collana legata alle tematiche adolescenziali, in linea generale cerchiamo di proporre uno specchio all'adolescente, di far vedere come un adolescente nel mondo, quindi magari in un paese lontano dal nostro, possa vivere la stessa problematica, quindi magari trarne punti, vantaggi, svantaggi e quant'altro. Questo è un po', diciamo, il progetto culturale legato a Scuola Cinemaf. Senti, che portata ha l'archivio che avete a disposizione materialmente? Abbiamo una library di 40 film, tra film e documentari, che coprono più o meno tutte le tematiche di cui ti ho parlato prima. Non pensiamo di dover offrire una libreria più grande, anche perché poi comunque c'è il fattore tempo, nel senso che a scuola ci sono anche altre attività da compiere, quindi non ci sembrava, come dire, appropriato offrire una libreria troppo grossa. Quali sono stati i criteri di scelta di questi 40 titoli? Come ti dicevo prima, abbiamo cercato innanzitutto pellicole poco note. Okay. Questo anche perché poco noto non vuol dire che non siamo prodotti di qualità. Certo. Anzi, a volte è l'opposto, ma soprattutto al nostro modo abbiamo cercato di combattere lo streaming illegale appunto offrendo pellicole poco note, perché magari è più difficile trovarle in rete a titolo gratuito, e dopodiché abbiamo cercato appunto pellicole che sposassero un po' la nostra idea di collana che abbiamo realizzato. Fabio, quante sono le scuole al momento coinvolte nel progetto? Ma attualmente stiamo lavorando con un bacino d'utenza di circa 5.500 scuole sparse a macchia di leopardo in Italia. Questo grazie alla partnership con SoClu, che è il social network didattico, è l'ambiente protetto in cui poi gli insegnanti e gli alunni possono svolgere la parte didattica legata per ogni film. Ok. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? Certo, trovate tutto su www.scuola.cinemaf.net. Ok, a questo punto Fabio io ti ringrazio, un abbraccio, magari ci sentiamo per degli aggiornamenti. Quando volete, grazie a voi, un caro saluto. A presto, ciao Fabio. Ciao, grazie. Fabio Giarrusso sul portale scuolapuna.cinemaf.net. Con Gianni Di Capua, regista del documentario Piani Paralleli, in uscita in sala domani venerdì 7 aprile. Gianni, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Piani Paralleli, lo raccontiamo un po' a chi ci ascolta? Allora, Piani Paralleli è un film concerto. Un film concerto che si pone tra il documentario e il... è la ripresa di un concerto. È un film, si può dire, claustrofobico, perché è tutto girato all'interno della Fazioli Concert Hall, sì, sì. La famosa fabbrica di pianoforti che ha tra i suoi maggiori estimatori Herbie Hancock, per fare un nome su tutti. Beh, una nome. Fabbrica che si trova nel Pordenonese, a Sacile. Ecco, nell'ambito di 5 giorni di registrazione di questo disco, ossia Piani Paralleli, ecco, abbiamo portato dentro le telecamere e abbiamo registrato tutta la creazione, tutto il processo creativo che sta attorno alla realizzazione di un disco. In questo caso è la suite per quartetto jazz e orchestra d'archi di Giovanni Masarino. Mm-hmm. Com'è partito tutto? Il tutto è partito come un'idea di celebrare da parte della Jazzy Records, che è un'etichetta discografica milanese basata a Milano, con l'idea di rendere un omaggio ai 30 anni di carriera di questo compositore pianista siciliano Giovanni Masarino. Nasce come una provocazione, nel senso che io accettai di realizzare questo lavoro a patto che fosse consentito alle telecamere, alle cineprese, di poter entrare nell'agone musicale, ossia non ai margini della scena musicale, ma dentro la scena musicale. Sembra molto semplice, sembra banale quello che sto dicendo, però è molto è decisivo ai fini, sì, di poter raccontare visualmente la musica. Mm. Perché quello che noi vediamo di solito quando partecipiamo ad un concerto alla televisione, noi assistiamo a quello che viene ripreso dalle camere poste all'esterno del palcoscenico. Ecco, noi in questo caso qui siamo entrati dentro, abbiamo disposto quindi binari, luci, tutto quello che costituisce il set cinematografico, e abbiamo così potuto entrare nel vivo del racconto musicale. Ecco, devo dire che in questo caso una volta accordato questo sistema, questa modalità di ripresa con i musicisti, alla Sazioli, alla Fazioli Concert Hall, di musicisti ce n'erano parecchi, una trentina circa tra orchestrali e appunto solisti. Ecco, una volta accordata questa modalità, ecco, devo dire che è stato un lavoro splendido da questo punto di vista. E quindi loro hanno accettato, tra virgolette, la nostra intrusione, e noi naturalmente abbiamo assecondato quelle che poi sono tutte le esigenze della registrazione musicale. Ecco, proprio da questo punto di vista c'è stata una sorta di preparazione tecnica per non risultare elementi di disturbo in qualche modo durante l'esecuzione? Sì, come no. Ad esempio, vedete, il cinema è un'operazione di camuffamento della realtà che va a riprendere. Sì. Cioè camuffa, cioè cosa significa? Allora, le luci, i microfoni. Ecco, in questo caso qui noi abbiamo agito in maniera totalmente opposta. Noi abbiamo evidenziato tutta quella che è la macchina cinematografica, cioè noi nel film vedremo le luci, vedremo i binari, vedremo gli stessi operatori filmare se stessi, perché abbiamo disposto un binario intorno all'orchestra. Voi dovete immaginare l'orchestra, e intorno alle, ad essa, cioè sul palcoscenico della frazione, abbiamo collocato tre binari. Cioè, su ciascuno di questi tre binari abbiamo collocato tre carrelli con tre operatori, macchinisti, eccetera, che giravano. Questo per dare un senso di continuità al nostro racconto. Dal punto di vista cinematografico, ecco, lo spettatore, anche i radioascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, non si troveranno di fronte ad una ripresa, ad un racconto musicale fatto a spezzatino, le immagini, sì, quasi didascaliche, suona il basso, allora andiamo sul basso, suona la tromba, andiamo sulla tromba, suona, sì, l'arco. No, questo modo piuttosto dozzinale, dilettantesco, di raccontare il concerto e la musica. No, noi qui abbiamo adottato il piano sequenza, sì, un continuo e lungo piano sequenza che accoglie al suo interno la frase musicale senza sottoporla allo stress del montaggio incalzante, no? Delle diversi, sì, punti di vista. Sì, sì, ecco, sì. Allora in questo, quando gli stessi musicisti all'interno dell'esecuzione assecondano questo tipo di modello, no? Prendono confidenza con le stesse telecamere, e quindi dopo il terzo giorno, noi abbiamo girato per circa cinque giorni, sì. Diciamo giorno dopo giorno questa struttura, questo set montato intorno e sopra e sotto e attorno a loro è diventato talmente familiare che poi le cose sono nate e sono scaturite in maniera molto spontanea, come potranno vedere quelli che vedranno il film. Ecco. Senti, rispetto ai musicisti, tanti gli artisti coinvolti, anche talenti internazionali, ce ne parli un po'? Sì, in effetti, dunque Giovanni Mazzarino ha chiamato a sé per questo progetto alcuni dei maggiori musicisti della scena internazionale e anche italiana, persone che hanno collaborato spesso con lui, e quindi con lui, tra loro c'era già un affiatamento piuttosto, insomma, consolidato. Allora, tra di loro spiccava la figura di Steve Zwolow. Ecco, io non lo sapevo, però Steve Zwolow è stato colui che ha introdotto nel jazz il basso elettrico. Quindi qui parliamo proprio di personalità, di suono, di caratteristiche, di filosofie che hanno marcato la storia della musica. Sì. Questi Zwolow è tra i musicisti convocati da Mazzarino, persona estremamente dolce, disponibile, silenziosa, come ricorda Mazzarino nel film. E accanto a lui c'è Adam Nussbaum, grande percussionista, grande che ha collaborato con i maggiori musicisti della scena internazionale. Poi abbiamo, tra gli italiani, abbiamo Fabrizio Bosso, forse non necessita neppure di essere introdotto, una meravigliosa testa, una meravigliosa personalità, di una sensibilità, di una capacità di fraseggio. Parlo della tromba, lui suona tromba, flicorno, in questo film concerto, con una straordinaria naturalezza. Sì. Parlo di naturalezza perché parliamo sempre di musicisti che si rapportano anche rispetto alla telecamera. Pensate che Fabrizio Bosso aveva la telecamera che gli girava a 2 centimetri dalla tromba. Ecco, questa sua capacità anche di atteggiarsi nei confronti della telecamera come se fosse un oggetto invisibile, fa parte, insomma, della capacità del musicista, del professionista, di concentrarsi sul proprio strumento senza essere distratto da una telecamera che gli sta proprio di fronte, lì a poca distanza. Poi c'è un'altra personalità molto notevole, direi, che ha partecipato a questo progetto, ed è Paolo Silvestri, che è uno dei nostri più bravi arrangiatori. Lui ha diretto l'orchestra Archi di Marigoni, questo è il nome della compagine orchestrale che ha accompagnato, che ha eseguito le musiche, gli archi di della suite di Mazzarino. E Paolo Silvestri, oltre che pianista, musicista, è stato il direttore, in questo caso è stato anche l'arrangiatore. Devo dire che ha portato a un contributo molto prezioso, molto, molto, molto particolare dal punto di vista degli arrangiamenti. E quindi assisteremo ad una, nel film, nel film concerto, assistiamo ad una esecuzione di brani estremamente cantabili. Ecco, se diciamo jazz, attenzione, non siamo nel jazz quello fortemente, se volete, tra virgolette, anche intellettuale, distaccato, talvolta anche ostico. Qui ci troviamo di fronte a un jazz molto accessibile, molto cantabile, mm-hmm, molto melodico, sì. Bello. Senti Gianni, per l'uscita che modalità avete previsto? Dice nelle sale? Sì, guarda, allora è un abbiamo adottato un modello distributivo che abbiamo definito su partenariato diffuso. Cioè, la cosa interessante, noi usciremo in diverse sale in questa tornata, usciremo in Roma, Firenze, Bologna, insomma le maggiori capoluoghi di provincia. Abbiamo attivato dei partenariati con alcune società e associazioni culturali e musicali jazzistiche alle quali abbiamo chiesto di entrare in partenariato con la distribuzione, ossia a costo zero per loro. Abbiamo sviluppato delle intese in modo da poter valutare il film nell'ambito delle loro rassegne. Vi faccio un esempio: ad esempio nel Friuli Venezia Giulia abbiamo un partenariato con l'associazione culturale, il circolo culturale Controtempo, ecco, che agisce, che sviluppa nel Friuli quattro diverse rassegne musicali. Ecco, nell'ambito di questa noi figuriamo appunto come una proposta a margine. La stessa cosa per esempio a Torino a maggio, quando ci sarà questa rassegna nuova che parte in maggio e che si chiama Narrazioni Jazz. Ecco, anche lì abbiamo concluso un partenariato e quindi non saremo nel programma come attività a margine. Il film verrà proiettato a Baretti, al Cinemateatro Baretti, il 19 maggio, e così via. A Firenze, per esempio, il partenariato è stato concluso con la Music Pool di Gianni Pini, poi abbiamo ancora Ferrara. Ecco, questo è il modello distributivo che abbiamo messo in atto. Bene. E ritorneremo poi in autunno con altre rassegne jazzistiche in Sicilia, ritorneremo probabilmente in Lazio, Roma, in Campania. Ecco, è una novità, è un modello distributivo piuttosto innovativo questo. Gianni, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, guardate, fatevi il titolo del film, Piani okay. Paralleli. Perfetto. Piani Paralleli, oppure c'è anche la casa di produzione, cioè la Jetsy Records, oppure Blick Film, ma comunque basta che andiate su web o comunque anche su Facebook, Piani Paralleli, e verrete su tutti indirizzati alle nostre pagine. Un abbraccio, in bocca al lupo. Grazie a voi e a tutti i vostri ascoltatori, e che spero che arrivino numerosi ad apprezzare questa splendida musica di Mazzarino. Ciao Gianni, a presto, ciao. A presto a voi, grazie, ciao. Gianni Di Capua, regista del documentario Piani Paralleli, in uscita in sala domani, venerdì 7 aprile. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito, colonna centrale dell'home page, alla voce Trasmissioni. Canzoni Visionari, poi la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. In collegamento con Maria Beatrice Alonzi per parlare del suo mockumentary, il titolo io ho messo Siamo noi le sessiste con il punto interrogativo, anche se non è esattamente questo. Comunque, Beatrice, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ma grazie per l'invito, che piacere. Allora, mi era arrivata questa comunicazione anche rispetto alla polemica che c'è stata rispetto a quella trasmissione televisiva, mi è arrivata comunque, anche se lo dico, non vedo televisione, però insomma il caso è stato abbastanza, ha avuto un eco abbastanza forte, e anche questo tuo lavoro mi ha incuriosito parecchio, per cui mi fa piacere parlarne oggi con te. Raccontiamo un po' brevemente l'antefatto e poi su cosa hai lavorato. Assolutamente. Durante il programma della RAI, Parliamone Sabato, condotto da una nota conduttrice, all'interno diciamo di un contesto quasi a forma di sondaggio, si è andato a cercare di capire per quale motivo gli uomini italiani potessero o no preferire le donne dell'Est, e di conseguenza identificare le donne dell'Est come una minaccia per le donne italiane. Quindi è apparsa una schermata che raccontava come loro potessero essere minacciose perché gli uomini potessero amarle di più, e sicuramente c'erano degli spunti sessisti contro le donne. Tutto questo è portato alla chiusura del programma Parliamo di Sabato. Cosa è successo? Io sono rimasta stupita per l'ennesima volta, dopo insomma un'analisi di questo fenomeno, per quello che si chiama sessismo intragenere, che non ho inventato io ma Darwin, solo che lui portava l'attenzione sicuramente su quello che era tra uomini. Quindi nella ricerca del partner perfetto gli uomini montavano una certa aggressività. Il sessismo intragenere, per quanto mi riguarda, a seconda dell'analisi di più di 50 studi e di ricerche universitarie, avviene anche tra le donne in maniera più o meno chimica, poi gli antropologi hanno delle idee differenti, però secondo me si poteva fare una domanda, ovvero sono anche le donne ad essere sessiste, addirittura possiamo essere noi le prime sessiste? Questo perché quando è uscita questa notizia io sono rimasta abbastanza stupita dalla reazione delle donne, che sì, era indignata nei confronti di questo sessismo contro le donne, quindi contro la figura della donna per la sua intelligenza, per il suo modo di porsi all'interno del contesto sociale, ma in realtà anche con un enorme accanimento nei confronti delle donne dell'Est. E quindi mi sono detta ma, e ho cercato di raccontare questa cosa grazie a un documentary, delle finte interviste, però basate sullo studio di queste ricerche di cui ti parlavo prima. Senti, è stato uno studio insomma accurato da quello che ho capito, e insomma di risposte ce ne sono state parecchie, e tu hai raccolto quelle più significative, immagino. Sì, lo studio è stato fatto sulla base di più di 50 testi di ricerca universitaria degli ultimi 30 anni. Okay. Quelli che mi hanno più colpito sono sia i più vecchi sia i più nuovi, però dell'università del Nord America e del Canada. Una di queste che mi ha fatto tanto sorridere è fatta proprio su quello che ti dicevo prima, sullo scoppio dell'aggressività tra due donne, nel momento in cui una delle due sente attraverso ovviamente una risposta ormonale, mettiamo tra virgolette, l'odore di un determinato feromone sulla maglietta dell'altra, comprende che la donna sia in ovulazione e diventa maggiormente aggressiva. Io lo dico ridendo, perché quando parlo di queste cose davvero le persone rimangono sconvolte e mi dicono che sono pazza, e soprattutto che sono legata a un mondo precedente allo studio dell'antropologia. Invece secondo me bisognerebbe fare una riflessione anche su questo. Un altro studio interessante è quello fatto invece assolutamente recentissimo dell'anno scorso. Un campione di donne viene messo in una stanza, gli viene chiesto di compilare un questionario su come loro vedono le altre donne, una ragazza viene fatta entrare dalla porta vestita in maniera sufficientemente succinta, con i capelli sciolti, un bel trucco, i tacchi alti. Questa donna chiede semplicemente se è quella la sala dove effettuare il test, non il test che stanno effettivamente facendo le donne all'interno della stanza. La ragazza lascia la stanza. Poco dopo ritorna la stessa ragazza, stavolta struccata, con i capelli legati, jeans e una t-shirt accollata. Le donne scrivono che con certezza, quindi una risposta del 9,5, 9 su 10, con certezza la prima ragazza ha avuto una vita sessuale promiscua e più di due partner, la seconda ragazza sicuramente meno, sempre una risposta del 9, 9 e mezzo su 10, ovviamente era la stessa ragazza. E però per quanto riguarda quello che si è scatenato dopo questo questo caso televisivo, ha interessato soprattutto i social, e lì il feromone c'entra relativamente, quindi quindi immagino sia molto dovuto anche a un portato culturale che interessa totalmente, tutto il nostro paese. Totalmente, infatti le ricerche non sono state fatte solo sul profilo chimico e biochimico, bensì anche sulla, certo hai ragione, sulla risposta che le donne hanno nei confronti delle altre donne all'interno di applicazioni di messaggistica, quindi come si reagisce su WhatsApp banalmente o su Messenger, o insomma in una risposta testuale, come reagiscono sul social a notizie come queste. Ti devo dire la verità, io ti dico come hanno risposto alla mia di notizia, cioè sì, al mio documentary. Sì. Io sono rimasta piacevolmente colpita e anche onorata dallo scoprire che le donne si sono sentite messe in discussione, hanno continuamente e continuano oggi a condividere con un ritmo incredibile il mio video, dicendo che in effetti, per quanto sia triste, è probabilmente una realtà che le donne ce l'hanno con loro stesse e di conseguenza purtroppo con le altre. E ti devo dire che non ho avuto nessun detrattore, cioè tra tutti i migliaia di commenti fatti al mio video sono centellinati quelli contro o quelli che sostengono che sia la classica visione servo padrone dovuta solo alla sovrastruttura sociale, che è certamente un componente, però io portavo l'attenzione su qualcos'altro. Quindi le donne hanno reagito meravigliosamente, io sono stata davvero onorata dal fatto di portare un'attenzione su una cosa come questa. Senti, ci saranno sviluppi rispetto a questo tuo lavoro? Hai pensato ad altro? Sì, ho pensato ad altro e vorrei concentrarmi sulla figura, sul giorno della festa della mamma, per parlare non nel senso stretto della maternità, ma di quanto noi siamo importanti per qualcuno a prescindere. Siamo sempre importanti per qualcuno e di conseguenza è davvero fondamentale tutelarsi, curarsi e farsi controllare. Questo in particolar modo per le femminucce che incorrono in un'insorgenza di tumori al seno, alle ovaie, e che possono essere assolutamente monitorati e controllati da molto prima che diventino incurabili, cosa che ormai fortunatamente succede sempre di rado, ed è molto legata alla prevenzione, a quanto presto vengono effettuati i primi controlli. Quindi mi concentrerò su questo, mettiamola così. Senti, a questo punto in chiusura ci dai tutti i riferimenti per questo mockumentary e anche il titolo? Allora, che hai definitivo, quello giusto? Tu hai detto giustissimo, okay, nel senso che il titolo è proprio "Ma saremo noi le prime sessiste", e poi l'hashtag "non è necessario". Okay. E lo trovate sul mio profilo di Facebook, che è facebook.com/lodicebea, perché io sono la prima delle egocentriche e potete trovarlo lì e seguirmi. Io sono Maria Beatrice Lenzi. Se poi siete a Roma il 13 aprile, volete venirmi a vedere a teatro, mi trovate alla Fonderia delle Arti. Benissimo, allora un abbraccio e a sentirci presto a questo punto. Grazie infinite davvero per l'accoglienza. Ciao Bea, ciao. Ciao. Maria Beatrice Alonzi, regista del mockumentary "Siamo noi le sessiste". Abbiamo in linea Francesco Munzi, regista del documentario "Assalto al cielo", che sarà in tour a partire da oggi, giovedì 6 aprile. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, partiamo dal lavoro. Per chi ci ascolta, ce lo descrivi tu? Ma diciamo che è un lavoro, un documentario di montaggio puro. Ho voluto per la prima volta affrontare un periodo di racconti di chi l'ha vissuto, cioè il periodo degli anni 70, ma attraverso una scelta tematica molto precisa, che è quella appunto del tentativo della rivoluzione raccontato dai ragazzi di allora. Quindi diciamo è un lavoro di archivio, senza voce fuori campo, senza dove ogni sequenza cade sull'altra. Non ci sono leader conosciuti, e copre il periodo che va dal 67, quindi diciamo un anno prima dello scoppio della rivolta, della contestazione mondiale, fino al 76-77, intorno al movimento di Bologna. Ok. Come è partito tutto il progetto? Ah, il progetto nasce dal fatto che io sono nel 68 non ero nato, nel 77 avevo pochi anni, e quindi sono sempre rimasto molto turbato un pochino, ma anche interessato a quell'epoca lì, però volevo per la prima volta tentare di avere un rapporto un po' diretto, appunto, che andasse oltre i racconti e oltre la letteratura, oltre il cinema di finzione. Quindi da lì nasce il desiderio di fare documento, cioè di riandare sul documento e di anche di offrire allo spettatore un proprio viaggio, perché questo documentario cerca un po' di fare un passo indietro rispetto alla narrazione pura, cerca di portare allo spettatore del materiale dove lo spettatore stesso può fare un po' il suo viaggio. Io volevo riascoltare quelle voci, avere una mia impressione come posso dire, diretta di quell'epoca, senza necessariamente la mediazione di chi c'era. Ok. Ecco, proprio rispetto a questo, Francesco, già la scelta comunque del materiale rappresenta comunque un punto di vista autoriale. In questo senso, a cosa e dove hai voluto attingere? Ovviamente, diciamo, io dal punto di vista neutro è impossibile, anzi dove ho fatto proprio delle scelte, diciamo, di montaggio. Noi abbiamo attinto a più archivi, direi quasi tutti gli archivi disponibili, da Rai Teche a l'archivio del Movimento Operaio, Istituto Luce, ma anche Cineteca Bologna e oltre archivi privati. E ho cercato tutto quel materiale, intanto che fosse girato internamente dal movimento, anche da persone che stavano all'interno, quindi evitando il materiale più istituzionale, più freddo. E poi ho cercato di estrapolare le sequenze più lunghe, in modo che si potesse dare anche la sensazione di stare un po' lì dentro, quindi avere anche la percezione di 2-3-4 minuti in seguito. E ovviamente cercavo, poi era come avere un puzzle, e ho seguito un sentimento. Infatti il film è diviso in tre movimenti diversi, cioè il movimento dei primi che copre gli anni, i primi anni dal 67 fino al 70, dove si racconta un movimento un po' di slancio unitario, di grande vitalità, di grande forza, che poi lascia il passo a un secondo movimento che è più di tensione, è più di scontro, e poi lascia ancora spazio a un terzo movimento che ci porta verso gli anni Ottanta, che è più di frantumazione, di dissoluzione, come qualcosa che pian piano evapora. Però è molto importante all'interno saperci fare un viaggio dentro, perché diciamo, l'importanza di quel periodo là esce fuori e va un po' goduta con tutta la propria forza. Secondo me è anche un'importante riflessione per l'oggi. Senti, la ricerca di questo materiale e poi la fruizione, che cosa ti ha scatenato dentro? Cosa mi ha scatenato? Tante riflessioni diverse. Intanto, come posso dire, vedere alcune cose e raccontare qualcosa di completamente diverso. Non si fa un'impressione, è un materiale, è un fruizione, è la visione di chi filmava, però in ogni caso tu hai una percezione comunque un pochino diversa, né troppo mitica né troppo nostalgica, anche abbastanza critica a volte, per un periodo che troppe volte è stato un po' liquidato come il periodo degli anni di piombo, quindi in senso soltanto, come posso dire, negativo, comunque unidirezionale. Invece ti rendi conto della complessità e della ricchezza e di quanto oggi si abbia un po' bisogno di fare, in generale penso il conto con tutta l'Italia, ma con quel periodo in particolare, anche per fare una riflessione sulla sinistra, perché poi la sinistra, diciamo, si è modificata, diciamo così tanto. Senti Francesco, è un dato di fatto che al momento, ma anche per tutto il periodo successivo, la cinematografia italiana e soprattutto quella degli autori più conosciuti ha fatto gran fatica a raccontare quel periodo. Secondo te quali sono i motivi? Guarda, ho perso una parte della domanda perché sono in treno, penso che... ho detto, sì, no, Eric, sia all'epoca che poi in tutto il periodo successivo la cinematografia italiana, a partire dai nomi più conosciuti, ha fatto una gran fatica oppure ha distorto gli eventi. Secondo te questo a cosa è dovuto? Ma secondo me è dovuto a una mancanza di lucidità, fondamentalmente, una mancanza di distacco, ma nel senso buono del termine, nel senso che c'è sempre fatta una storia ad uso proprio delle proprie convinzioni, dei propri ricordi, e quindi anche ogni racconto è un racconto personale, compreso il mio che vuole provare ad essere il più possibile materiale antologico. Però ecco, spesso è un periodo strano perché è abbastanza vicino da non essere ancora storia ed è abbastanza lontano per cui deve essere invece raccontato. Io credo che la lucidità è qualcosa da guadagnare ancora, quindi io ho fatto un po' almeno il mio tentativo era cominciare per me anche, oltre che per lo scrittore ovviamente, a farmi qualche idea in più rispetto a quella mediata della fiction o da molta letteratura. Un altro dei motivi è l'oblio che spesso a partire dall'alto ma anche ascendendo più giù si è esteso su quel periodo, e come fosse una piaga dolorosa da dimenticare al più presto. Ecco, proprio a proposito di questo, secondo me un ruolo lo gioca il fatto che questo materiale, questi archivi non siano poi così facilmente fruibili. Questa cancellazione storica, secondo te, ecco, come la interpreti tu? La interpreto un po' come segno dei tempi, insomma, siamo dei tempi dove si galleggia proprio su un presente terribile, diciamo, dove sembra che non sia difficile sia di immaginare un futuro e quindi anche un passato, e non mi sorprende, e in questo senso bisogna fare uno sforzo invece di riportare fuori, di riportare la discussione senza relegarla al tema o far diventare il tema ammiccante, ecco, come spesso si è fatto per molta letteratura e molto cinema, perché appunto poi 68 e 77 o gli anni di piombo attraggono perché sono storie di violenza a volte, oppure raccontate in maniera vintage come un fatto di costume, di musica, bella musica, gonna, fiori, ecco, dovremmo ritornare lì con un senso invece proprio da cittadini, ecco, da cittadini, cioè capire cosa siamo diventati, perché insomma non sono passati 200 anni, questa storia è una storia recente, io me la ricordo, io da bambino giocavo con quelli del palazzo, giocavamo a guardie e terroristi, e quindi invece che guardie e ladri, era qualcosa che diciamo arrivava da tutti, anche a livello di noi bambini. Ed è questa, io vorrei poterla raccontare a mio figlio, ho fatto vedere a mio figlio questo documentario e lui vede un'Italia che gli sembra fantascienza, un'Italia che sembra quasi un racconto dell'assurdo, un teatrino dell'assurdo. Ecco, in realtà è un'Italia che esiste, di cui lui fa parte ancora adesso come strascico, quindi è importante. Se mi chiedi sull'oblio, ecco, secondo me è un dato di adesso ci tendiamo a cancellare. Perché non fa comodo a tante persone sapere come ci siamo modificati e da dove veniamo, ecco, per questo è anche difficile immaginare poi il dopo, il futuro. Francesco, in chiusura, qual è secondo te il lascito di quelle tensioni ideali e materiali? Ma il lascito è fondamentale, importante, io penso che ci sia molte dei diritti delle conquiste di cui ancora godiamo ora vengono da lì. E però si tende a dimenticare che molti dei problemi o delle rivendicazioni o anche delle critiche al sistema che venivano, che erano rivendicazioni dell'epoca, sono ancora attualissime, e invece adesso si fa un po' paura a parlarne come se fosse ormai assodato, ecco, nulla più criticabile, ecco, oppure soltanto per piccolissime le modifiche, invece delle istanze fondamentali sono urgenti già adesso. Io mi auguro che se ne possa riparlare a un certo punto. Così come è strano che anche il G8, uno dei ultimi fatti recenti, di grande contestazione recenti, siano sprofondati in un buco nero. della memoria. Bene, Francesco, allora partire da oggi in tour a Salto del Cielo, immagino anche proiezioni alla tua presenza ci saranno in molti sì, casi. Sto cercando per quanto posso, diciamo, di accompagnare il film, anche perché questo film scatena tante riflessioni, quindi è molto interessante seguirlo, quasi più di un film di finzione, certo. Bene, allora un abbraccio Francesco, a risentirci. Grazie presto. A voi. Ciao. Francesco Munzi, regista del documentario Assalto al Cielo, in tour a partire da oggi, giovedì 6 aprile. Tommaso Valente per parlarci della campagna di crowdfunding per il progetto Take a Walk on the Young Side. Ciao Tommaso, benvenuto. Sì. Grazie a voi per così aver raccolto la nostra campagna, averci offerto questo spazio, questa possibilità di parlarne, insomma. Allora raccontacelo un po', Tommaso. Allora, il progetto è di per sé abbastanza semplice nel suo intento, cioè nasce per raccontare l'attuale generazione dei ventenni attraverso delle interviste e per una vocazione contemporanea, e per puro caso è nato a livello mondiale, nel senso che ho avuto la fortuna, per lavoro, facendo il documentarista, di viaggiare molto nell'ultimo anno e di incontrare ventenni di molte differenti nazionalità, e questo mi ha permesso di raccogliere molte testimonianze, soprattutto in un momento come questo in cui il mondo sembra chiudersi sempre di più in una sorta di furia, diciamo, reazionaria sotto certi aspetti, o comunque spesso che non favorisce quello che invece molti ragazzi di 20 anni hanno di solito voglia di fare, cioè scoprire, conoscere, viaggiare, insomma, avere il mondo a disposizione in un modo o nell'altro. Cosa ti ha sorpreso di più nel punto di vista dei 20enni italiani oggi? Ma nel punto di vista dei 20enni italiani oggi mi ha sorpreso tantissimo. Diciamo che noi partiamo da un'unica prerogativa nelle nostre interviste, e questa prerogativa è che la persona che decidiamo di intervistare, o con cui decidiamo di avere un'intervista, può anche essere una persona che ha ovviamente delle cose da recriminare alla situazione contemporanea, ma in maniera costruttiva, cioè deve essere una persona che in un modo o nell'altro ha ingaggiato un rapporto con il presente, anche conflittuale, ma comunque per una realizzazione. E devo dire che quello che ho notato tantissimo, soprattutto dai ragazzi e dalle ragazze italiane che hanno partecipato al progetto, è una grande voglia di realizzarsi, non tanto come può essere stato per le passate generazioni attraverso il raggiungimento di obiettivi materiali, ma di realizzarsi come individui. Cioè, per loro la conoscenza del prossimo, dell'altro, l'accoglienza, la condivisione, sono realmente dei valori, non sono chiacchiere demagogiche buttate lì, ma sono valori a cui sono stati educati dalla scuola, dagli adulti, e che in questo momento loro stesso sentono come traditi in un modo o nell'altro, o meglio, si sentono gli unici ad averli a cuore, e questo è molto interessante, insomma. Senti, invece, cosa li accomuna e differenzia rispetto ai coetanei del panorama internazionale? Ma sicuramente quello che è incredibile soprattutto appunto, non so, io ad esempio ho raccolto 5-6 testimonianze durante un film festival in cui ero ospite in Portogallo, dove c'era un work camp, questi campi di lavoro in cui dei volontari durante l'estate vengono ospitati da strutture come in questo caso un film festival e in cambio di vitto e alloggio offrono lavoro volontario. E c'erano ragazzi che andavano dalla Corea agli Stati Uniti, passando per tutta l'Europa e da Sud America, dalla Grecia, c'erano veramente ragazzi da ogni dove. E la cosa che mi ha davvero stupito è stata la capacità di comprendersi oltre le differenze linguistiche e culturali e la voglia da parte degli uni e degli altri di condividere ciò che più hanno a cuore della propria cultura e per contro la voglia di scoprire da parte dell'altro. Mm-hmm. E questo è stato molto emozionante. Ad esempio un ragazzo sudcoreano che ho intervistato mi ha detto: io voglio l'intervista perché io voglio dire e voglio che chi vede la mia intervista sappia che per me i coreani sono tutti uguali, anche i nordcoreani ad esempio, no? E mentre una ragazza spagnola mi dice: tu mi chiedi dell'Europa, della comunità europea, ma io ti dico che è tutto il mondo per me uguale, cioè che un tedesco non è diverso per me da un africano o da un sudamericano o da un arabo. E questa capacità comunque in un momento in cui le differenze, alle volte anche violente, nel quotidiano sembrano essere all'ordine del giorno, mi ha dato invece la sensazione che questa generazione è davvero accomunata dalla capacità di comprendere, di attraversare lo spazio che c'è tra una cultura e l'altra. E questa è un'occasione che possiamo cogliere oggi, perché gli ultimi 50-60 anni della nostra cultura sono andati in questa direzione. Mm-hmm. E prima che questa rotta si inverta, secondo me sarebbe importante mantenere questa lezione. Questo io penso che sia, come posso dirti, una delle cose veramente una delle grandi spinte a portare avanti questo progetto per me. Senti, per raccontiamo anche brevemente come funziona il progetto. Sì, allora, intendi in questo momento anche la campagna di finanziamento dal basso. Che stiamo facendo. Allora, la nostra campagna si trova su un sito di crowdfunding che si chiama Indiegogo, che è uno dei più conosciuti, insomma, anche a livello internazionale, e si basa sostanzialmente su una serie di donazioni che si possono fare per supportarci, alle quali sono state associate delle piccole ricompense. Sono delle ricompense più simboliche che non dei veri e propri acquisti di prodotti, perché il nostro progetto è sostanzialmente libero, i nostri video sono gratuiti e quindi abbiamo addirittura donazioni che partono da 2 euro, quindi, come dire, cerchiamo di andare incontro al fatto che chiunque voglia partecipare, chiunque senta il bisogno, anche se non ha possibilità, grandi possibilità economiche, di farci sentire che vuole che andiamo avanti, lo può fare anche con una piccola cifra. Perché invece dall'altra parte, per portare avanti il progetto, ci vogliono sicuramente dei piccoli e dei grandi investimenti, cioè comunque abbiamo sicuramente bisogno di girare video, di attrezzature, di distribuzione online, di viaggi, di trovare nuove storie, eccetera. E quindi da questo punto di vista, come dire, cercando Take a Walk on the Young Side, anche su Google Take a Walk on the Young Side Indiegogo, potete trovare la nostra campagna. Altrimenti potete cercare Chronicles from the Twenties, o comunque potete cercarci allo stesso modo su Facebook o direttamente su YouTube, e da lì anche arrivare alla nostra campagna non è difficile. E anche su un blog che si chiama Instant Documentary, instantdocumentary.it, sul quale è molto facile trovare i riferimenti della nostra campagna. Benissimo. E quindi diciamo che appunto partecipando alla nostra campagna chi partecipa alla nostra campagna ci dà la possibilità di fatto di continuare questo lavoro. Ok, allora Tommaso, io ti ringrazio, un abbraccio, ci sentiamo magari più in là per i risultati. Assolutamente, molto molto volentieri. La campagna dura fino a maggio e poi con molto molto piacere potremmo riparlare anche di subito dopo la campagna di quelli che saranno gli sviluppi una volta che riceveremo i finanziamenti. Grazie mille. Ciao Tommaso, ciao. Ciao, ciao, grazie. Tommaso Valente sulla campagna di crowdfunding per il progetto Take a Walk on the Young Side. Eccoci con Sabrina Baracetti per parlare di un film in uscita. E ci sei, Sabrina? Sì, ci sono. Eccoci, ciao a te, tanto... a tutti i radioascoltatori. Ben ritrovata. Come va? Molto, molto bene, siamo molto eccitati perché oggi è il giorno d'uscita del nostro film, ci stiamo lavorando da moltissimi mesi e quindi è il momento proprio il momento in cui dovremo avere il responso del pubblico, che poi è la cosa più importante, perché fino ad ora abbiamo avuto tantissimi segnali positivi dalle persone che hanno visto in anteprima il film, perché lo stiamo portando in Italia, l'abbiamo portato in Italia per alcune anteprime importanti durante il mese di marzo, e abbiamo creato poi un tour promozionale assieme alla regista e all'attrice protagonista. Naturalmente sto parlando di Libere, Disobbedienti e Innamorate, il film che è diretto da Maisa Luna Mod, che è una giovane regista palestinese che vive proprio a Tel Aviv e che esordisce proprio la regia con questo lavoro che è stato ampiamente premiato a Toronto Film Festival e anche al Festival di San Sebastian, dove appunto si è aggiudicato il film come migliore film e come migliore attrice protagonista. Anche il titolo è un titolo doppio, perché c'è anche In Between dopo Libere, Disobbedienti, Innamorate, se non sbaglio. Sì, la questione del titolo è stata per noi una questione molto molto pregnante, perché sì, il titolo originale ovviamente non era neanche in between, ma il significato del titolo originale era quello che sto per dire, appunto tra cielo e mare, era una indicazione geografica, in qualche modo comunque un'indicazione spazio-temporale, che poi è stata tradotta verso l'inglese per il titolo internazionale con In Between, e che noi abbiamo reso con una terna di aggettivi che ci sembrava particolarmente adatta a raccontare le tre protagoniste donne di questo cinema, di questo lavoro cinematografico appunto di Maisa Luna Mod, e quindi ci sembrava giusto ricordare che queste donne, che sono tre donne palestinesi, ma che potrebbero rappresentare comunque, e rappresentano anzi in realtà, l'universo femminile dei nostri tempi, sono e vogliono essere libere, sono sicuramente disobbedienti e sono altrettanto innamorate della vita e della libertà, ovviamente. Senti, come le racconteresti brevemente per chi ci ascolta? Ma sì, il film è molto semplice ed è molto empatico e comunicativo, appunto perché sceglie tre tipi di donne, ma che non vuole essere ovviamente schematico nello scegliere questi tre tipi. Ovviamente abbiamo, ovviamente, non è il termine giusto dire ovviamente, ma al centro della storia c'è una donna emancipata, ovviamente siamo la storia ambientata a Tel Aviv, anzi a Tel Aviv, ma anche e soprattutto a Jaffa, è un, il contesto metropolitano è particolarmente pregnante nel film, perché è uno, è anch'esso uno dei protagonisti stessi di questo racconto. Comunque, dicevamo, c'è una donna emancipata, perché ha una donna che ha successo, ha un successo professionale, perché è un'avvocatessa, e ovviamente questo corrisponde, a questo corrisponde anche una certa libertà, sia dal punto di vista degli usi dei suoi, delle sue decisioni sentimentali, per cui non ha una relazione fissa, ed è sicuramente una donna moderna e autonoma. A fianco a lei c'è una donna invece un po' più problematica, diciamo, anche se questo non, sminuisce il senso del personaggio raccontato da Maisaloon, ma è semplicemente per riuscire a, a comunicarvi il senso di questi di tre tipi. Una ragazza che non ha ancora trovato una professione, ma che vorrebbe proseguire su una strada che è quella che la rende sicuramente più felice, che è quella di, della musica, quindi una aspirante DJ, ed è una DJ a tutti gli effetti anche nel, nel film, ed è una ragazza omosessuale. Lo dico perché semplicemente anche questo è uno dei temi della, del film. La terza ragazza che arriva all'interno di questo appartamento, che è un appartamento nel centro della città e che è appunto il luogo dove le tre donne condividono e dividono appunto una vita che aspira alla libertà, è invece una musulmana che ha una relazione sentimentale con un uomo che potremmo dire, insomma, molto una relazione che apparentemente non è problematica, ma che poi lo diventerà, perché si confronterà appunto con lo stile di vita di queste altre due ragazze, quindi con un uomo che potremmo dire che appartiene al genere dei fondamentalisti. Ok. Quindi questo scatena tutta una serie di confronti e di scontri. Quindi ci sono degli avvenimenti anche molto drammatici nel film, anche se il film è condotto sicuramente con uno spirito leggero, con un'anima leggera, perché è intriso sicuramente di amore e di sentimento, cioè, ed è questa la, l'approccio che ha voluto usare Maisaloon. Cioè, ci sono delle cose che dobbiamo fare per ottenere dei risultati nella, nella nostra vita, ottenere la libertà, ovviamente la libertà ha un costo, e le tre donne protagoniste lo devono sostenere questo costo. Mm-hmm. Sabrina, che distribuzione avrà? Ora partiamo oggi appunto con la distribuzione in tutta Italia, siamo in circa 20 sale, quindi a Roma siamo in 3 sale, a Milano siamo in 2 sale, e quindi siamo particolarmente convinti che, visto il visto appunto il responso di questo tour promozionale che ha avuto, che abbiamo organizzato assieme alla regista, all'attrice protagonista, e che ha dettato, che ha prodotto sicuramente un feedback molto positivo, e siamo convinti che oggi, con la partenza ufficiale nelle sale italiane, riusciremo a conquistare anche un pubblico più allargato. Comunque a Roma siamo a Giulio Cesare, a Quattro Fontane e a Greenwich, e a Milano siamo all'Ariosto, l'Arcobaleno. Poi siamo anche a Bergamo, Mantova, Torino, Firenze, Pisa, Bologna, Rimini, Faenza, Genova, Padova, Udine ovviamente, Pordenone e Ascoli Piceno. Benissimo. Allora Sabrina, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a voi. Andate a vedere il film. Ciao. Grazie mille. Ciao. A presto. Sabrina Baracetti della Tucker Film sulla distribuzione del film Libere Disobbedienti, In Between, il sottotitolo in inglese, in uscita in sala oggi giovedì 6 aprile. Eccoci con Peter Marcias, regista del documentario Silenzi e Parole, in uscita in sala oggi giovedì 6 aprile. Peter, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, grazie a voi per l'ospitalità. Raccontaci un po' di questo documentario. Ma allora, io mentre giravo la nostra quarantena mi sono trovato diciamo, tra le tante cose che ascolto e che leggo, la parola queer ejima, che sono 40 giorni di iniziative di un'associazione sarda che si chiama ARC, che si batte per i diritti degli omosessuali. E allora, come dire, ho ragionato per inquadrare e seguire tutte queste iniziative. Poi mi è subito ragionata questa cosa, che potevamo anche riprendere le iniziative della Quaresima dei Frati Cappuccini. Allora, man mano è venuto fuori Silenzio e Parole, un film che all'inizio non avevo ben chiaro cosa volevo fare, però poi man mano col montaggio, diciamo non l'accostamento, vedere le iniziative della Quaresima dei Frati e vedere le iniziative della Quiresima dell'Associazione ARC ha dato un senso al film. Dunque c'è un dialogo, come dire, sotterraneo tra queste due fazioni, chiesa e associazionismo GLBT. Senti, come si sono svolte le riprese e com'è stata l'interazione? Ma allora, le riprese si sono svolte nel largo di tanto tempo, a parte che ho seguito totalmente la Quaresima, due Quaresime dei Frati Cappuccini del convento di Sant'Ignazio a Cagliari e poi le iniziative invece della Quiresima dell'Associazione ARC. È stato molto difficoltoso perché le iniziative poi spaziavano da una parte all'altra, cioè sono state ore e ore e ore di materiale e poi ho fatto tantissime interviste, cioè ho fatto un lavoro preparatorio che per me era il film, invece come ho detto prima era un lavoro preparatorio, poi man mano col montatore Andrea Lotta è venuto fuori altro, diciamo. Senti, per un bilancio di questo tuo lavoro, soprattutto su quello che ti ha lasciato? Ma guarda, mi ha lasciato innanzitutto che ho conosciuto più nello specifico la vita dei Frati Cappuccini, che sono delle persone straordinarie che io peraltro ho frequentato sin dalla giovane età, e vedere come vivono, come lavorano, come si impegnano per il prossimo. Ho avuto la fortuna anche di intervistare uno dei frati che poi adesso è scomparso, che si chiamava Fra Lorenzo Pinna, che peraltro è un odore di santità. È stato molto bello, molto importante, ma è nello stesso tempo anche l'iniziativa dell'associazione ARC, cioè mi ha arricchito, perché poi alla fine la conoscenza delle persone, di quello che fanno, che poi che entrambi fanno del bene per la società senza chiarirlo molto in giro, è stato molto importante, come ti ho detto, è stata una cosa molto significativa che mi ha lasciato tante cose. Senti, l'uscita, quante sale e che modalità? Allora, il film ha avuto l'anteprima ieri al 18° Festival del Cinema Europeo di Lecce, nella sezione cinema e realtà. Infatti sono stati grati al festival per aver dato il primo lancio. Da oggi il film è nelle sale sarde, farà da oggi a Cagliari al cinema Greenwich fino a Pasqua, poi faremo delle serate un po' in giro per la Sardegna, toccheremo tutte le città più grandi, tra cui Oristano, Carbonia, Nuoro, Sassari, e poi dal 13 in poi toccherà alcune sale nazionali, la distribuzione di Istituto Lucio Cinecittà, a cui il film è piaciuto subito e ha deciso di portarlo in sala e poi divulgarlo man mano. Senti, il movimento sardo LGBT gode di buona salute? Ma sì, diciamo l'associazione ARC è un'associazione molto viva e molto attiva nel territorio. Anni si occupa di realizzare questa Quiresima, che è già il titolo abbastanza particolare, però sono attivi nel campo dell'Helpline, di tutte le battaglie contro l'omofobia, sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Insomma, c'è un grande fermento, ma soprattutto una grande forza di non voglio essere bonita, di aiutare il prossimo a prescindere che poi a volte uno sia gay o non gay, però le loro battaglie sono trasversali, sono per una nuova idea di democrazia. Io questa cosa l'ho vista anche sui frati, perché poi sai, un documentarista ha a che fare con le persone, si trattiene, le osserva, poi si fa un'idea, e anche su di loro mi sono fatto una grande idea di una chiesa nuova, di una nuova anche loro modalità di democrazia, e questo secondo me è un'Italia che forse si conosce, ma non tantissimo. Dunque io ho cercato di raccontarla con un documentario che spero arrivi alla tarda di persone possibile. Benissimo. Allora, ci lasci in chiusura i riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora c'è la pagina ufficiale Silenzio Parole film, e poi sulla Facebook, la pagina Facebook del distributore di Duplo Lucio Cinecittà. Io vi ringrazio per l'accoglienza e per e per questa intervista. Peter, un abbraccio e alla prossima. Ciao. Grazie, un abbraccio a te. Ciao. Ciao. Ciao. Peter Marcias, regista del documentario Silenzi e Parole, in uscita in sala oggi, giovedì 6 aprile. Oh, Dulcis in Fundo, il film al quale abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana con una foto di scena. Ne parliamo con Valerio De Paolis di Cinema, che lo distribuisce. Si chiama L'altro volto della speranza. Il regista è Aki Kaurismäki. Valerio, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno, grazie della telefonata. Allora Valerio, per chi ci ascolta, qual è in breve la storia? Ma la storia si svolge in Finlandia, che è un po' la città, è la città di Kaurismäki dove lui vive, e anche lì arrivano degli emigrati, un po' meno di quelli che arrivano in Italia, ma anche lì arrivano. È la storia di un ragazzo giovane siriano che è riuscito a scappare e che chiede asilo politico in Finlandia. Contemporaneamente c'è un signore finlandese che si è stufato di stare con la moglie, va via e vuole aprire dei ristoranti. Adesso, da questo incipit così un po' bislacco, un po' strano, parte una storia dove poi questi due personaggi così diversi tra loro si incontreranno, uno aiuterà l'altro, e con una serie di avvenimenti che tanto è inutile che vi racconto, perché sennò vi rovino il centro del film. È un film tipicamente di Kaurismäki, quindi un film di realismo magico. Lui racconta la realtà, ma tutta filtrata attraverso uno suo sguardo sulla vita, che non è mai pessimista, ma che è sempre, non voglio dire allegro, ma venato di ironia e di stralunatezza. Quindi è un film che fa molto sorridere, anche se affronta dei temi seri. Ecco, proprio a proposito di questi, Valerio, paese che vai, burocrazia che trovi, secondo le autorità la tregua ad Aleppo è sufficiente per farlo tornare, quando invece le immagini in televisione danno esplosione. Quello è appunto il punto di osservazione tipico di Kaurismäki, che ironizza in maniera drammatica su come la Finlandia faccia finta di essere un paese democratico e gentile nei confronti degli stranieri, e invece di fatto poi non lo è. È un momento abbastanza critico del film rispetto al suo paese. Senti Valerio, da oggi in sala quante sale? E 81. 81, una bella uscita. Sì, una bella uscita, perché l'esercizio ci ha creduto a questo film. D'altra parte, l'altro film di Kaurismäki, Un miracolo alle Havre, è un film che è andato benissimo, che è piaciuto molto al pubblico, e questo film, l'altro volto, è stato a Berlino, è stato recensito molto bene, ha avuto un premio importante, quindi insomma c'è una giusta attesa, ci sono le premesse perché il film possa andare bene. Benissimo. Speriamo e andiamo avanti. Ti ringrazio Valerio, ci sentiamo per la prossima. Buona giornata. Ciao. Valerio De Paolis di Cinema, sulla distribuzione del film L'altro volto della speranza di Aki Kaurismäki, in uscita in sala oggi giovedì 6 aprile. Con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale per quanto riguarda questo giovedì 6 aprile 2017. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta alla diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.